Mamma Antinoe si era attardata a riassettare la cucina assieme a zia Demodice, mentre io ero risalita per continuare a trascrivere. Prima di riprendere il calamo in mano, riordinai il tavolo, poi andai nell'angolo della stanza, alla sinistra della finestra, dove appese a un gancio c'erano le due borse di cuoio. Mamma mi aveva detto che in una delle due c'era il grande ordinamento di Leo Cippo e ne dovevamo fare 5 copie. Nell'altra c'erano invece gli elenchi dei drammaturghi ateniesi e di tutte le loro opere, di cui bisognava fare subito 3 trascrizioni. Mio padre sarebbe tornato alla fine del mese e voleva trovarle pronte. Aprì la borsa più consumata. Emanava una puzza di vecchio che faceva vomitare. Chissà quale schifo di inchiostro avevano usato, non certamente il nostro, metà gelso e metà sambuco. Mentre estraevo il codice, il fetore divenne insopportabile. Dovevano aver usato qualche sostanza animale putrefatta, il sangue di qualche sacrificio agli dèi. Erano un centinaio di fogli, il papiro era di ottima fattura, ma la grafia era incerta. Oltre al testo centrale, scritto in caratteri grossi, c'erano dappertutto commenti, probabilmente dello stesso copista. I caratteri erano molto piccoli. Sfogliai il volume, capii che doveva essere l'opera dello Pseudo-Leucippo. In quelle pagine regnava il caos. Continui segni critici sui margini del testo, decine e decine di note a margine, coronidi e asterischi, e ancora schemi geometrici, figure, numeri a non finire. Continuai a sfogliare incuriosita, ma il libro brulicava di pidocchi rossi. Soffiavo per scacciarli, ma sembrava che avessero le zampette incollate ai fogli di papiro. Provai con le dita, ma ottenni solo il risultato di lasciare delle tracce rossicce. Proseguì facendo scorrere i fogli sempre più incuriosita dai disegni ai margini del testo. Sembravano rappresentazioni di luoghi religiosi, templi strani, diversi da tutti quelli finora visti o immaginati. La voce possente di un malditore ruppe la quiete della giornata estiva, invitando tutta la gente di Fliunte a recarsi al porto fluviale. Stava arrivando da Argo il nostro campione di giavellotto e quello di lotta classificatosi al secondo posto. Mai la nostra città aveva ricevuto un simile onore. Zia Demodice gridò di prepararmi, di lasciar perdere i maledetti libri, ma io ero affascinata dai disegni. Quelle figure ovaliformi esprimevano un senso di pace. Nel foglio successivo erano disegnate le stesse identiche cose, ma più piccole. In quello dopo, i medesimi templi, figure e statue, ma molto più piccoli, il tutto sempre racchiuso in una specie di mezzaluna. Zia Demodice urlava, invocando Efeso e Ares affinché scagliassero folgori divine sulle casse di papiro. La voce dolce di mamma mi pregò di scendere. Allora soffiai sul foglio di papiro, cercai di salvare un ragnetto che era finito fra i pidocchi, ma maldestramente lo spiaccicai con un dito, proprio quando l'insetto aveva liberato la parte centrale di un piccolo anello che serbava una parola. Era la dea. Era, o forse il nome del copista, subito ricoperta da un nugolo di pidocchietti rossi. Chiusi il codice, lo rimisi nella borsa unta e bisunta, la riattaccai al gancio sulla parete e scesi le scale di corsa. Il banditore aveva fatto un buon lavoro. Trovammo le stradine di Fliunte brulicanti di gente che si dirigeva verso la riva orientale del fiume Asopo. Fiancheggiammo la collina dell'Acropoli, il teatro, poi. Subito dopo il tempio di Asclepio, giungemmo al nuovo porto fluviale costruito in occasione dell'allargamento del fiume per renderlo navigabile fino a Sicione. Il festeggiamento degli eroi di Argo era stato scelto per l'inaugurazione. L'agorà era allestita a festa, davanti al portico un palco fiorito e gli stendardi della città che garrivano al vento. Paionio ed Eugammone, i due eroi di Argo, erano in forte ritardo, ancora non erano arrivati allo stadio di Nemea. Mamma resistette qualche clessidra, poi tornò a casa. Non si sentiva molto bene. Volevo accompagnarla, me lo proibì. Stai sempre rinchiusa, sei una prigioniera come me. Hai solo 17 anni. Resta, Siotea, vedrai, la cerimonia ti piacerà. Proprio in quel momento il coro davanti al portico prese a cantare e a danzare. Le suonatrici di Aulo sportavano il tempo, i ballerini volteggiavano leggeri. Mamma mi dette un bacio sulla fronte e si dileguò tra la folla. Soltanto 3 ore dopo giunse il carro con gli atleti e il corteo. Due di essi portavano sulle spalle e sul collo il vessillo con lo stemma di Fliunte. Uno portava la corona d'ulivo sulla testa. Zia De Modice si tolse il copricapo colorato che aveva indossato per l'occasione e lo sventolava dimenandosi come una ragazzina, incurante delle occhiate sorprese che le lanciavano le donne accanto a noi. I due atleti saltarono sul piazzale di pietra, felici per l'entusiastica accoglienza. L'arconte Rintone pronunciò un discorso breve ma di grande effetto. Un sacerdote sacrificò un maialino agli dèi, lo misero subito a cuocere sulla brace già preparata. Poi si passò alla distribuzione del vino. La gente brindava in onore dei due giovani che presero a girare fra la folla. Eugammone aveva il fisico del lottatore, basso di statura, tozzo, rossi capelli ispidi, occhi chiari fuori dalle orbite. Assaggiava il vino dalla ciotola e poi lanciava sulla folla il resto. Paionio, invece, aveva una corporatura più da corridore che da lanciatore di giavellotto, un po' più alto della media. Fisico muscoloso ma asciutto, completamente abbronzato, capelli neri e ricci, occhi castani infossati. Sei bello come un dio, gli urlava zia Demodice. E dato che conosceva sia lui che tutta la sua famiglia, quando Paonio si trovò vicino a noi, gli afferrò le mani, gliele strinse, le baciò mentre lui mi gettava un'occhiata eloquente, chiedendole chi fossi. Presi a strattonare zia Demodice a un fianco, volevo fuggire. Mi sentii avvampare mentre lei rispondeva: Assiotea, figlia di Piramo e di Antinoe. Piramo, il commerciante di papiro. Il giovane mi lanciò uno sguardo penetrante, mentre cercavo di nascondermi dietro mia zia. Lui girò dall'altra parte, come fosse un gioco, mi piazzò i suoi occhi in faccia. Tuo padre era d'Argo, assieme ad altri, con lo stendardo di Fliunte. L'ho conosciuto. Salutalo per me, Assiotea. Digli che uno di questi giorni verrò a trovarlo. Non è ancora tornato, gridai con voce strozzata, e credo che non farà ritorno fino all'arrivo dell'inverno. Non facei in tempo a rispondermi perché la gente lo voleva con sé. Si mise a ridere, serrando gli occhi con malizia, tracannando un'intera ciotola di vino mentre si allontanava dalla mia paura. Volevo correre a casa. Mi sentivo come se tutta la gente avesse ascoltato. Provavo vergogna. Tra i denti sibilai verso mia zia, le dissi cose orribili mentre lei mi malediceva urlando che era un'ingrata, una stupida. Così, mentre la folla mangiava, beveva e cantava, io e zia Demudice continuavamo a inveire una contro l'altra. Ero infuriata, spaventata. Lo sguardo malizioso di Paionio mi riempiva di terrore e purtroppo mio padre sarebbe tornato presto, prestissimo, con o senza il permesso degli dèi. Sulla via del ritorno ci sorpresero le prime ombre del crepuscolo. Zia Demodice non faceva che urlarmi dietro, maledicendomi, tentando inutilmente di rallentare la mia andatura, mentre io sfogavo la rabbia contro di lei. Avevo paura. Capivo benissimo quello che poteva accadere. Non avrei lasciato mamma. Mai. Chi l'avrebbe aiutata a copiare? Chi le avrebbe dato un po' d'affetto? Di solito non facevo troppo caso alla puzza che emanavano le stradine di Fliunte, ma quel pomeriggio sentivo il marcio che fuoriusciva dalle fogne a cielo aperto, dalle stalle, dagli occhi corrotti degli uomini. Appena la toccai con una mano, la porta si schiuse. Mamma, devo raccontarti, devi fare qualcosa per me, per noi. La casa era avvolta nel silenzio più assoluto. Mi affacciai al bagno, al peristilio, poi corsi su per le scale. Mamma! Mamma, devi fare qualcosa per noi due! Avevo il cuore in gola per l'episodio dell'agorà. Non riuscivo a capire perché mamma si fosse messa a dormire per terra in mezzo a tutto quell'inchiostro rosso, mentre io dovevo parlarle subito. Mamma! Mamma! Le sferrai un fianco, una spalla per svegliarla, la tirai per un braccio. Il mio cuore volava più della mia paura. Prese a girarla. Era un corpo morto. Il volto imbrattato di sangue, gli occhi semichiusi, il peplo lacerato, il capo quasi staccato dal tronco. Mamma! Mamma! Una profonda ferita sul collo le aveva quasi mozzato la testa. Le mie mani, il suo sangue. Oh madre, che cosa ti hanno fatto, madre? Chi può averti fatto tutto questo? I tuoi occhi hanno visto, ma non ti hanno potuto salvare. Oh mamma, non mi guardi più! Non potrai più baciarmi, madre! Madre! Perdonami, non dovevo lasciarti tornare sola a casa. Dovevo disobbedirti, ti avrei salvata. Oh, madre! Madre! Sentii la presenza di zia Demodice al mio fianco. Prese a invocare gli dèi, poi a domandare, a gridare, a scendere di nuovo le scale. La sentivo urlare, chiamare qualcuno, passi rapidi, voci che entravano, che salivano, che tornavano a scendere, che correvano. Poi non so quanto tempo dopo, due uomini mi furono accanto e mi staccarono a forza dal corpo pieno di sangue senza vita di mia madre. Il medico sentenziò che Antino era stata quasi decapitata da un grosso coltello, forse una piccola daga. La donna aveva lottato, si era difesa, ma nulla aveva potuto contro l'uccisore. Il magistrato volle parlare con zia Demodice. A me chiese se nella casa mancava qualcosa. Non capivo, ero distrutta. Mi guardai attorno, mi alzai, barcollavo. Detti un'occhiata alle casse, al tavolo, alla borsa attaccata alla parete. La borsa. Erano due, le borse. Una di pelle nuova, quella che ancora era appesa alla parete, e una vecchia bisunta. Mancava. Glielo dissi. Il magistrato mi chiese se ne conoscevo il contenuto. Un vecchio codice, forse del filosofo Leucippo. Dovevamo farne cinque copie per mio padre e mi sforzavo inutilmente di frenare il pianto. Allora, Siotea, tua zia ha detto che in casa sono sparite tutte le dracme che avevate e i pochi monili d'oro. Sono scomparse anche le statue d'argento nell'altare domestico. È stato sicuramente un ladro che ha approfittato della cerimonia tenuta all'agorà. Abbiamo saputo che anche altre case sono state derubate. Tua madre è giunta all'improvviso e il ladro, vistosi scoperto, l'ha uccisa. Quando tornerà tuo padre, parla con lui, digli di venire da me. Speriamo che il criminale si tradisca e così sarà Piramo a decidere se fargli causa o meno. Poi il medico e il magistrato mi lasciarono sola. Mi inginocchiai di nuovo sul sangue che imbrattava il pavimento, chinandomi a baciare gli occhi azzurri che non vedevano più la vita. Finalmente la pace era calata sul suo volto, nei suoi occhi, le scempiaggini dei funerali. Gli occhi di mia madre erano spauriti, vi era rimasto un brandello di luce disperata. In quegli occhi, su tutto il volto, nei muscoli delle guance, del mento, sotto gli zigomi c'era un'espressione di rabbia e di dolore perché la vita, la sua vita, era stata spezzata e non sarebbe più stata la mia guida, la mia amica, la pace. No, semmai un'espressione di dolore, di guerra. La morte ci libera. Povero mondo di stolti. Ma non mi venne concesso altro tempo. Giunse zia Demodice con tutte le vicine di casa, presero possesso di Antino e la denudarono, la lavarono, le misero una fasciatura nera sotto al collo, la ricoprivano di unguenti profumati e la vestirono con una tunica blu. Poi pettinarono i suoi lunghi capelli neri, li volevano lasciar liberi. Dovetti gridare perché li raccogliessero dietro la nuca come piaceva a lei. Una volta tanto mia zia mi ascoltò. Poi, dopo averla trasportata nell'andron di sotto, accanto al peristilio, deposero il suo corpo sul letto coperto di panno nero. Il volto bianco risaltava su tutti quei colori di morte. Fui io a serrarle le ciglia con un bacio, ma non ebbi la fortuna di oppormi a zia Demodice quando inserì l'obolo per Caronte tra le labbra di mamma. Le ore della notte sembravano non passare mai, e invece il giorno giunse. Il corpo di mamma venne trasportato sopra un carro accanto al fiume Esopo, vicino al tempio di Asclepio. Il corteo era composto dai parenti di mio padre e di mia madre, dalle donne che piangevano a pagamento e da due flautiste che suonavano e danzavano mestamente. Credetti di riconoscere una delle due ragazze che probabilmente aveva fatto parte del coro il giorno prima l'arrivo degli atleti. Dettero a me la torcia per accendere il fuoco sotto la pira. Avevo il pianto in gola. Nel petto. Mi sforzai, tra le lacrime riuscii a balbettare. Non so come il sole possa brillare in questo modo. Non so come gli dèi abbiano potuto permettere che Antinoe venisse strappata in questo modo alla sua famiglia e a tutti noi. Possa Caronte trasportare la sua anima in un mondo meno violento di questo, così che lei possa dimenticare il dolore e le violenze subite in questa vita. Mi mordevo le labbra a sangue e il sangue si mischiava alle maledette lacrime che non servivano a riportare in vita mamma. A stento infilai la fiaccola accesa in mezzo alle fascine più secche. Il rogo divampò, sentivo il fuoco che incendiava le mie guance. Le tue parole, il tuo insegnamento guideranno la mia vita, che piacciono agli dèi. Questo farà tua figlia. Antinoe continuerà a vivere in Assiotea. Due mani mi strapparono al fuoco che divampava furioso. Non riuscivo a frenare il fiume di dolore che inondava la mia vita. Pronunciavo il nome di mia madre come se questo potesse rallentare l'opera del fuoco. La donna che mi aveva strappato alle fiamme, una delle due flautiste, mi stringeva il petto invitandomi a liberarmi. Piangi, Assiotea, urla, bestemmia, sputa tutta la tua disperazione finché in te resterà qualche briciola di rabbia. Stringiti a me e piangi, piangi. Quando le fiamme ebbero divorato il corpo, il sacerdote raccolse in una coppa di metallo briciole di ceneri, si recò accanto alla riva del fiume e le lanciò verso le acque placide verdi, invocando il figlio dell'erebo e della notte, affinché accompagnasse la defunta Antinoe di Fliunte sull'altra sponda dell'Acheronte, offrendole in custodia a Cerbero. Zia Demodice invitò i più intimi del corteo a venire a casa nostra a ricevere le libagioni dei funerali. Lo disse anche Alastenia di Mantinea, la flautista che stava cercando di consolarmi con il soffetto, per la prima e sola volta nella mia vita, fui grata a mia zia. Da sola non ce l'avrei fatta a dormire nel gineceo dove lavoravamo e riposavamo io e mamma, ma la presenza di Alastenia mi dette coraggio. Dopo un'interminabile cena in cui tutte le vicine di casa fecero finta di interessarsi a me, del mio futuro, di quello di mio padre, mentre divoravano dolci di noci e miele offerti da parenti e amici, io e Lastenia ci ritirammo di sopra. Per quanto mia zia avesse lavato e pulito fondo, la grossa macchia di sangue era ancora visibile. Mi inginocchiai sull'ombra scura e presi a piangere. Lastenia, in piedi dietro di me, mi accarezzava i capelli e la fronte in silenzio. La lampada a olio gettava più ombre che luce nella stanza. Le mani di Lastenia sentirono allentarsi la tensione del mio dolore. Solo allora mi invitò ad alzarmi, a coricarmi sul letto di fronte alla finestra, per poi sdraiarsi accanto a me. Attese che il mio dolore cominciasse a scemare, mi sferrò gli occhi umidi di pianto con un bacio. Lastenia, raccontami un po' di te. E fui io a prenderle una mano tra le mie. Ci vorrebbero anni. Ma in fondo è una storia che si può raccontare in breve. Ero una bambina quando a Mantinea ci fu la famosa battaglia dove morì Epaminonda ed ebbe termine la dominazione di Tebe. Mio padre morì in quella battaglia assieme a due miei fratelli. Mia madre morì pochi mesi dopo di parto. Venne adottata da mio zio e pochi anni dopo venduta come schiava per 150 dracme. Ma avevo già imparato a ballare e suonare in alcuni cori e grazie al mio aspetto divenni una flautista girovaga. Ho potuto conoscere tanta gente, visitare quasi tutta l'Ellade, anche se ultimamente lavoro quasi sempre ad Atene, dove il mio lavoro viene ben apprezzato. Nella sua voce era risuonato un velo di amara ironia. Avvicinò le nostre mani intrecciate alla sua bocca, premendo le mie dita sulle sue labbra. Non c'è bisogno che tu me lo dica, Siotea. So che sei pura, che non hai mai conosciuto l'amore. Sentivo il suo alito sulle mie dita e spero di conoscerlo il più tardi possibile, Lastenia. Appoggiò la testa sul cuscino, cercando i miei occhi nella penombra. Ma non devi aver paura degli uomini, Assiotea. Conoscendoli a fondo, t'accorgerai che sono dei bambini. Per loro la vita è un gioco. Sì, Lastenia, il loro gioco preferito è la guerra. La penombra non mi permetteva di cogliere tutte le sfumature dei colori dei suoi occhi. Averti accanto a me, questa notte, per me vuol dire evitare il buio, il dolore senza fine. Ma non sei obbligata a parlare, mi basta tenerti la mano. I tuoi occhi sono come quelli di mia madre. Dal piano di sotto giungevano le voci querule di zia Demodice e del piccolo esercito di pettegole del nostro quartiere. Sei diversa da tutte le persone che ho conosciuto, Assiotea. Non ti appelli quasi mai agli dèi, non ti piangi addosso come quelle sventurate. Il vocio proveniente dalle scale era sempre più fastidioso. Conoscendo te, si capisce che Antinoe non era una donna qualunque. L'altro ieri, appena l'altro ieri, deve aver lottato non per le monete o per i monili d'oro e nemmeno per le statuette dei nostri antenati, ma per il suo lavoro, per il mio futuro. Il mestiere di copista rappresentava la possibilità di essere un po' libere, pur essendo prigioniere. Mi divincolai dalla mano di Lastenia, mi alzai in piedi, staccai la borsa di pelle dal gancio accanto alla finestra. Tornai a sdraiarmi accanto alla mia amica. L'aprì, estraendone una manciata di fogli di papiro tenuti legati a mucchietti. Detti un'occhiata. Sono elenchi dei drammaturghi ateniesi, delle loro opere. Ne sfogliai alcuni. Addirittura le date delle varie rappresentazioni. Li porsi all'Astenia che gli gettò un'occhiata indifferente. Ne devo fare 3 copie. Domani stesso comincio. Voglio continuare questo mestiere anche da sola. Rimisi tutto nella borsa e la gettai sul tavolo alla nostra sinistra. Nella borsa rubata c'era un vecchio libro di filosofia, buono solo per accenderci il fuoco. Il ladro non ci ricaverà nemmeno un obolo. L'Astenia aveva ghermito di nuovo la mia mano. Era interessante. Io non l'ho letto. Tra l'altro puzzava. Ma Antinoe mi disse che era opera di un filosofo che a lei sembrava un commediografo, mi pare un tale Leucippo. Prese a baciarmi le dita della mano avvinta la sua. Leggi tutto quello che trascrivi, Assiotea? No, solo quello che colpisce la mia curiosità. Mi appassiona copiare libri di storia. I miei autori preferiti sono Tucidide e Senofonte. In un'opera filosofica riesco sempre a trovare qualche pensiero interessante. I poeti e i commediografi non li sopporto. Il contatto con le sue dita placava il tremore che mi stava riassalendo. Non so proprio cosa ci sia da ridere in questa vita, l'astenia. L'astenia sorrideva amaramente. Anche se hai ragione, non credo che si possa affrontare l'esistenza guidate da un pensiero simile. Ci vuole un pizzico di follia per potersi difendere, per fuggire ogni tanto. Si tirò su, si mise in ginocchio sul letto con la mano libera, mi sfiorò i capelli, la fronte. Fra 2 mesi ci sono i misteri eleusini. Ci sei già andata? No, e non ci tengo. Assiotea, devi venire con me nella sala delle iniziazioni, nel Telesterion. Tu sei degna di questa iniziazione. Non hai mani impure, non hai commesso omicidi o sacrilegi. Mi strattonava felice come una bambina. Mi verrebbe solo da ridere, credimi. La mia voce e il mio atteggiamento erano inflessibili. Piuttosto, raccontami un po' di vita vera. Con quelle mani diafane, figlie della musica e dell'aria, mi sfiorò le guance. Hai ragione. Qualcosa devo dirti, perché potrebbe esserti utile quando dovrai fare qualche scelta decisiva. Ascoltami attentamente, allora. Tra qualche giorno arriverà tuo padre. La prima cosa che farà sarà quella di liberarsi di te, cercandoti un marito. Mai! Avevo gridato. Puoi farlo, Siotea, ma ricordati che tuo padre sarà ben lieto di accontentarti, perché se ti darà in sposa al tuo futuro marito dovrà pagare una dote che per una famiglia come la tua dovrebbe aggirarsi attorno a 5-6 mila dracme, come minimo. Mentre se tu dovessi riuscire a convincerlo che proprio non vuoi, beh, allora lui non avrebbe altra scelta che venderti come schiava. E con una ragazza sana e bella come te potrebbe riuscire a guadagnarci anche 500 dracme. E scrollava il capo. L'amarezza incupiva i suoi bellissimi lineamenti. Ma tu, Assiotea, saresti disposta a condurre una vita come la mia? Ne saresti capace? Ansimavo, cominciavo a sentirmi in gabbia. La musica non mi è congeniale. Ma pur di non andare in sposa a uno scelto da mio padre, sono disposta a tutto. Non toglieva le mani dalle mie guance, continuando a scrollare il capo. Povera creatura ingenua, la mia storia è quella di tutte le disgraziate come me e sarà anche la tua se non riesco a convincerti. Io già sapevo danzare e suonare l'aulos. Il primo anno lo trascorsi nelle botteghe dei fabbri a dare il tempo agli schiavi per battere il ferro incandescente, accanto alle fucine, a un calore insopportabile. 10 ore al giorno, labbra spaccate, senza mangiare né bere né sorridere né pensare, senza vivere, Assiotea. Mi ribellai e mi avrebbero sbattuta. nelle miniere della Tessaglia, se all'ultimo momento non mi avessero assegnata un coro per un simposio nella Grande Atene, ad allietare magistrati, filosofi, politici e commediografi come con il mio aulos, mentre quelli si ubriacavano e cominciavano a fare la corte ai loro belli e giovanissimi allievi, che dovevano schiudere le cosce ai vecchi puzzolenti se volevano fare carriera. E questo avveniva sempre nei banchetti o nei ginnasi, dove venivano invitate le flautiste per allietare e dare il tempo alle loro cavalcate sui ragazzi. La sua voce vibrava di dolore, distoglieva gli occhi dai miei e non voleva che leggessi nei regni oscuri del suo cuore. Nell'Ellade tutto si fa a ritmo di flauto: la guerra, i funerali, le feste, il lavoro, la schiavitù e la morte. Ogni tanto accade un prodigio. Un uomo importante di Atene, particolarmente soddisfatto di me, pochi mesi fa ha pagato il mio riscatto, ridonandomi la libertà. Sono una straniera residente, ma per campare devo continuare a suonare l'aulos e a fare le stesse cose che facevo da schiava. Ero sconvolta, non sapevo che dire. Allontanò le sue mani dalle mie guance, abbandonandole nel suo grembo sul peplo. Assiotea, se tuo padre ti venda un marito, accettalo, ti conviene. Forse potrai continuare a copiare e leggere libri. In cambio, dovrai sopportare qualche raro accoppiamento e dargli dei figli, ma la tua vita sarà molto meno sporca della mia. Le ombre create dalla lucerna erano più fioche, l'olio stava per consumarsi, le vecchie di sotto continuavano a berciare e io non smettevo di tremare. Tornammo a sdraiarci. I nostri volti uno contro l'altro. Mi dispiace, Assiotea, ma la vita è un po' diversa dalle scempiaggini che scrivono gli uomini sui libri. Sentivo la sua voce calda e il suo alito profumato. Per noi donne ci sono solo due possibilità di fuga. Una è quella delle erbe e dei funghi che ci permettono di raggiungere gli dèi dell'Olimpo, e l'altra, la sua voce si era fatta morbida, carezzevole. Proprio in quel momento l'olio della lucerna si esaurì, la stanza cadde nel buio. Dalla finestra faceva capolino una timida luna piena, rossastra. Al piano di sotto le vecchie continuavano a urlare idiozie. Percepii la stenia che si avvicinava a me. Un suo piede cercava rifugio fra i miei, un ginocchio fra le mie gambe, e io non sapevo come reagire, forse dovevo fuggire. Il suo alito sul mio, la sua voce che mi sussurrava. Assiotea. Non vuoi conoscere qual è l'altra possibilità di fuga concessa a noi donne? Il cuore mi scoppiava. Avevo stretto le gambe, serrando in una morsa disperata il suo ginocchio. Il suo alito di vita disperdeva le ceneri di Antinoe. Tremavo, ma non cedevo. Solo gli occhi, Esotea. Posso baciarti gli occhi? Questo potevo concederglielo. Sentì il suo alito sfiorarmi il naso. Le sue labbra cercare le mie palpebre, lambirle. Chiusi gli occhi, un bacio delicato su uno, poi sull'altro, poi la sua lingua cominciò a sfiorare le mie ciglia e le dita di una mano si insinuarono nei miei capelli, sulla nuca, delicatamente, creando un argine per non farmi fuggire, mentre i suoi baci sui miei occhi erano diventati così languidi che mi sembrava di morire. E probabilmente stavo morendo. Il mio cuore non avrebbe retto ancora per molto a tutta quell'emozione sconosciuta e allentai la stretta delle mie gambe. La sua mano si insinuò e senza che io volessi, la mia bocca che stava martoriando con i denti, la mia bocca si schiuse nel buio, stremata da tanto languore.